Storie italiane. Ecco, arriva la tigre. Questa è la storia di un bambino di nome Krishna. Viveva con suo padre in un piccolo villaggio. Krishna e suo padre erano pastori. Si guadagnavano da vivere con le loro mucche. Ma Krishna era un ragazzo molto dispettoso. Ogni giorno era un buon giorno per combinare un nuovo guaio. Cosa faccio oggi? Perché non c'è nessuno qui? A chi potrei fare uno scherzo? Non posso permettere che oggi finisca così. Sono così annoiato. Dai, pensa a qualcosa. Proprio in quel momento, il padre di Krishna andò a trovarlo. Il bambino sembrava perplesso. Cosa è successo, Krishna? Perché sei qui? Oh, niente, padre. Mi stavo chiedendo che lavoro potessi fare adesso. Bene, fai una cosa. Oggi non mi sento molto bene. Perché non porti le mucche a pascolare sul prato vicino alla giungla? Certo, padre. Le porterò io oggi. E ascolta, devi sorvegliarle da vicino, altrimenti la tigre finirà per mangiarle tutte. Veglierò io su di loro, padre. Non ti preoccupare. Devo andare adesso. È quasi ora di pascolare le mucche. Sebbene Krishna fosse un bambino molto dispettoso, non aveva mai detto di no a suo padre, per nessun motivo. Secondo le istruzioni di suo padre, Krishna prese le mucche e le portò fuori a pascolare, vicino alla giungla. Aveva una fionda di legno in una mano e un lungo bastone nell'altra. Ben presto, Krishna, con tutte le sue mucche, raggiunse il prato vicino alla giungla. Vide un grande albero, proprio al centro della foresta. Si arrampicò e, stando attento, si sedette sull'albero. Cominciò ad usare la sua fionda di legno per colpire le pietre sul terreno. Ma ben presto si annoiò. All'improvviso pensò a un dispetto. Pensò di divertirsi un po'. Così iniziò ad urlare. Aiuto! Aiuto! Arriva la tigre! Mangerà tutte le mie mucche! Qualcuno mi aiuti! Una tigre! Una tigre proprio qui! Aiuto! Non appena gli abitanti del villaggio sentirono il suo pianto, rimasero scioccati e spaventati. Oh no! Krishna è in pericolo! La tigre lo ucciderà! Dobbiamo andare subito lì! Sì, sì! Andiamo, andiamo in fretta! Corri! Tutti corsero verso la giungla. Raccolsero tutto ciò che potevano usare come arma per attaccare la tigre. Gli indaffarati abitanti del villaggio avevano lasciato tutto il loro lavoro per correre a salvare Krishna. Yeah, yeah. Ma quando lo raggiunsero... Krishna, dov'è la tigre? Ti ha ferito? Non preoccuparti, Krishna, siamo qui ora. Devi scendere dall'albero. Dici, dov'è la tigre? Sì, dov'è la tigre? Dov'è? Dici! Tigre? Che tigre? Non c'è nessuna tigre qui. Allora perché stavi urlando? Era uno scherzo. Krishna, che scherzo è questo? Non farlo mai più. Non devi fare questi scherzi. Un giorno avrai dei guai. Abbiamo lasciato tutto il nostro lavoro per venire a salvarti. Basta, Krishna. I tuoi scherzi ci stanno creando problemi. Tutto questo deve finire. Non verremo mai più in tuo soccorso. Non essere così arrabbiato. È tutto a posto. Non lo farò mai più. Krishna non riusciva a smettere di ridere. Tutti gli abitanti del villaggio tornarono arrabbiati al loro lavoro. Ma Krishna era così contento di se stesso. Questo ha fatto bella la mia giornata. Poveri abitanti del villaggio erano così spaventati. Il giorno finì e Krishna tornò a casa con tutte le sue mucche. Il giorno dopo portò a pascolare di nuovo le mucche. E anche quel giorno decise di fare lo stesso scherzetto. Aiuto! Aiuto! Arriva la tigre, aiuto! Mangerà tutte le mie mucche! Qualcuno mi aiuti! Arriva la tigre! Qualcuno mi aiuti! Ancora una volta, gli abitanti del villaggio sentirono le grida di Krishna dalla giungla. Coloro che non sapevano dello scherzo si preoccuparono e corsero verso la giungla per aiutare Krishna. Krishna è in pericolo! Andiamo ad aiutarlo! Oh sì, povero bambino! Come affronterà la tigre da solo? Dobbiamo andare lì, adesso! Proprio così, dobbiamo andare ora! Oh, starà bene! Ancora una volta, convinti della sua innocenza, gli abitanti del villaggio corsero a salvare Krishna. Ma quando raggiunsero la giungla, videro che Krishna era seduto tranquillamente sull'albero ridendo. Guardate le vostre facce! Cos'è successo? Non c'è una tigre qui? Perché urlavi? Qui non c'è la tigre! Cosa c'è di sbagliato in te? Devi smetterla! Quando crescerai? Non è giusto, Krishna! Forse tu non hai un lavoro, ma noi sì! Perché continui a disturbare tutti, Krishna? Questo è ingiusto! Un giorno pagherai per i tuoi dispetti, Krishna! Noi corriamo in tuo aiuto ed è così che ci ripaghi! Non verremo mai più in tuo soccorso! Andiamo! Sì, sì, non lo ascolteremo mai più! Perché ve ne state andando? Cosa dirò ora alla tigre? Gli abitanti del villaggio, quando videro Krishna ridere, si arrabbiarono moltissimo. Gli urlarono tutti contro e se ne andarono via di corsa. Questa era diventata un'abitudine per Krishna. Ogni volta andava al prato e chiedeva aiuto. Tutti gli abitanti del villaggio, anche se conoscevano il suo scherzo molto bene, correvano comunque in suo aiuto ogni giorno. Ma un giorno la fortuna di Krishna non funzionò. Mentre prendeva le sue mucche per farle pascolare, arrivò una tigre. Anzi, non solo una, ma moltissime! Krishna allora iniziò a gridare. Aiuto! Aiuto! Una tigre! Una tigre, aiuto! Qualcuno mi aiuti! Ma questa volta nessuno andò in suo soccorso. Nessuno ascoltò le sue grida. Krishna rimase lì e continuò a chiedere aiuto. Per favore, credetemi! Ci sono molte tigre qui, zio, aiutami! Zio, zietta, salvami! Le tigri stanno attaccando le mie mucche! Qualcuno, per favore, mi aiuti! Per favore, aiutatemi! Per favore! Questo è il solito scherzo. Le sue grida sono sempre una bugia. Non sprecheremo più il nostro tempo. Hai ragione! Non andremo lì! Sono d'accordo. Sì. Nessuno andrà lì. Anch'io sono d'accordo. Torniamo al lavoro. Inutile perdere tempo. Krishna continuò e continuò a gridare, ma nessuno ascoltò le sue grida d'aiuto. Le tigri attaccarono tutte le mucche e ad una le mangiarono. Krishna rimase seduto, impotente, e pianse, pianse. Aveva perso tutte le sue mucche. Ben presto la notizia raggiunse il padre di Krishna. Così, preoccupato, corse verso la giungla. Che cosa hai fatto, Krishna? Queste mucche erano l'unico modo per guadagnare e ora non ci sono più. Come guadagneremo adesso? Cosa mangeremo? Ho sempre trascurato il tuo carattere, ma questo è davvero, davvero troppo. Cosa potrò mai fare con te adesso? Dimmi, dimmi. Per favore, padre, perdonami. Ho fatto un errore grandissimo. Mi dispiace molto. Non disturberò mai più gli altri. Non mentirò mai più. Mi dispiace molto. E così Krishna ha pagato per i suoi dispetti. Siete d'accordo sul fatto che ha sbagliato? Ah! Allora ditemi, che cosa abbiamo imparato oggi? Che non dobbiamo mai, mai mentire. Ogni volta che mentiamo, perdiamo qualcosa. Ah, esatto. Ogni volta che mentiamo, perdiamo la fiducia di qualcuno. Crederanno alle nostre bugie una volta, ma non sempre. E quando avremo davvero bisogno di qualcuno, saremo soli. Ecco perché dobbiamo essere sempre sinceri.